Mr. Kilowatt, alla ricerca dell'energia perduta. Buonasera da Maurizio Melis, benvenuti a Mr. Kilowatt. Stasera parliamo di una serie di interventi messi in campo dalla direzione del secondo tronco di autostrade per l'Italia, quello che insomma per intendersi collega Milano e Brescia. È un buon esempio di come sia possibile muoversi sul terreno dell'efficienza energetica con risorse limitate, puntando su aspetti di dettaglio ma comunque importanti. Perché? Perché le politiche energetiche di autostrade per l'Italia sono gestite a livello centrale, non di singolo tronco. Questo però non ha impedito appunto al secondo tronco autostrade di individuare alcuni aspetti di dettaglio su cui intervenire ulteriormente, a partire da un'operazione di pura sensibilizzazione rivolta ai dipendenti, come la diffusione di un decalogo sul risparmio energetico sotto forma di piccoli manifesti pieghevoli e adesivi appiccicati insomma un po' dappertutto nelle aree di competenza, di lavoro. Sentiamo allora che cosa ci racconta riguardo a tutte le altre iniziative Fabrizio Martini, coordinatore tecnico energia e sicurezza del secondo tronco di autostrade per l'Italia. Buonasera Martini. Buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori. Dunque, allora, ci aiuti a mettere a fuoco intanto quanto pesano e a cosa sono dovuti principalmente i consumi energetici con i quali vi dovete confrontare. Sì, diciamo che il costo complessivo dei consumi energetici della direzione secondo tronco di Milano è circa 3 milioni 50 mila euro all'anno, ripartiti in un 75% per l'energia elettrica e un 25% per i combustibili. Quindi grosso consumo elettrici, immagino illuminazione in gran parte. Ma diciamo che si dividono in due grandi famiglie, diciamo, usi diversi di illuminazione, quindi funzionamento fabbricati, e illuminazione per un 50% cada uno. Invece i consumi di combustibile a cosa sono dovuti? Avete degli edifici, immagino, da riscaldare, quindi. Esatto, edifici, dei fabbricati in stazione, posti di manutenzione, posti neve, caserme di polizia, punti blu. Ah, sono tutti fabbricati che gestite voi, quindi, credo che questo molte persone non lo sappiano. Sì, esattamente, ci sono fabbricati ad esempio come le caserme di polizia che sono gestite da noi sulle tratte autostradali. Voi avete l'obbligo di mettere a disposizione della polizia, giustamente peraltro, nelle caserme da cui partire eventualmente. Ecco, visto che stiamo parlando di edifici, lì come siete intervenuti? Ma sugli edifici siamo intervenuti con il coinvolgimento, la sensibilizzazione delle linee aziendali e anche dei singoli lavoratori con quella campagna informativa di cui si parlava. Poi diciamo siamo intervenuti attraverso l'utilizzo di sistemi di building automation, controllo presenze per ottimizzare i consumi energetici, impianti di illuminazione e anche quelli di climatizzazione. Ad esempio siamo intervenuti sull'ottimizzazione delle curve di lavoro degli impianti di climatizzazione, oppure sull'installazione di valvole e sonde di regolazione per il controllo delle presenze, o con l'installazione appunto dei rilevatori di presenza per subordinare l'accensione degli impianti di illuminazione interna alla presenza del personale. Ecco, perché voi avete questo problema che molte di queste stazioni, per così dire, sono luoghi di passaggio che possono essere vuoti per certi periodi, quindi o avete un sistema, come dire, di building automation che misura se c'è bisogno di tenere acceso, spento e quali temperature, o altrimenti non ce n'è, insomma, non c'è altro modo, credo. Esattamente, proprio così. Di risolvere il problema. Ecco, andiamo invece sulla illuminazione. Qui avete fatto appunto molti interventi di dettaglio. Sì, allora, gli interventi di dettaglio che abbiamo realizzato sono sostanzialmente l'installazione di orologi astronomici che ci consentono di accendere gli impianti di illuminazione esterna, ovvero gli impianti di illuminazione degli svincoli e dei piazzali, con una maggior precisione. Perché qui il problema è che, come dire, la normale sensoristica che si monta su questi impianti sbaglia, insomma, magari accende la luce un quarto d'ora prima, ma voi di svincoli ne avete un sacco, quindi i consumi, gli sprechi sono significativi. Esattamente, proprio così. Chiaramente adottando questi oggetti si ottiene, diciamo, una maggiore precisione nell'accensione e nello spegnimento di questi impianti. Tra l'altro la mattina si può anticipare lo spegnimento perché l'occhio umano è meglio adattato in quanto ha bisogno di una minore luminosità rispetto alla sera. Ah, d'accordo, curiosa questa cosa. Invece sull'illuminazione interna all'interno dei vari edifici di cui abbiamo già parlato, che cosa avete fatto? Beh sì, abbiamo valutato che è possibile ottenere un risparmio sostituendo le, diciamo, attuali plafoniere da 4x18 watt con degli apparecchi che montano lampade da 18 watt ma costituite da 3 lampade che però hanno una maggiore efficienza, dovuto a una maggiore efficienza dell'ottica. Ah, quindi non avete sostituito le lampade ma avete sostituito le ottiche? Esatto. E avete risparmiato una lampada su 4? In pratica sì, esattamente. In pratica abbiamo sostituito delle ottiche in alluminio satinato con delle ottiche in alluminio speculare purissimo e che hanno un rendimento molto superiore. Ecco, questa è una cosa a cui si pensa raramente, si pensa sempre a sostituire la parte, come dire, che emette la luce, raramente quello che ci sta intorno. Peraltro questa è un'operazione che una volta fatta, insomma, si può considerare fatta per sempre. Sì, infatti abbiamo valutato che tra l'altro ci darà un risparmio di circa 2,6 watt per metro quadro e quindi anche il payback è piuttosto ridotto, in 3 anni e mezzo dovremmo, diciamo, rientrare dall'investimento. D'accordo, ecco, qual è l'obiettivo che come appunto direzione Tronco 2 vi proponete di raggiungere una volta che questi, insomma, interventi, questa campagna di interventi sarà giunta al termine? Ma la difficoltà sta nel fatto che nel frazionamento degli impianti, però riteniamo che con le misure che stiamo adottando potremo ottenere un risparmio complessivo sul capitolo energia elettrica di un 1-2%, 25-50 mila euro all'anno. Ecco, insomma, poi essendo interventi appunto a così basso investimento, si possono anche fare un po' alla volta. Insomma, mi sembra che questa vostra iniziativa segnali un metodo per affrontare i problemi dell'efficienza energetica. Va bene, grazie allora Fabrizio Martini. Grazie a lei. Mister Kilowatt si chiude qui, ci risentiamo lunedì per parlare di alcuni interessanti accorgimenti per risparmiare energia con due utility molto diffuse nel mondo dell'industria. Parliamo di vapore e gas. Buon fine settimana.